Siamo con Gaetano Capizzi e Lia Furxi per parlare della 21esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio al 5 giugno. Ben trovati. Grazie, saluti. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, facciamo che vi alternate nelle risposte. Presentiamo intanto l'entità Cinema Ambiente. Identità, quantitativa, siamo in due perché quest'anno abbiamo ricevuto 3.200 film, per cui abbiamo dovuto vederli in tante persone e allora ci siamo divisi un po' gli ambiti tra l'IME. Cinema Ambiente è questo festival di cinema tematica ambientale di Torino, siamo al 21esimo anno di vita ed è un po' diciamo, il punto di riferimento del cinema ambientalista internazionale, che è una cinematografia molto viva, molto ricca e ci sono dei film veramente interessanti. E a Torino insomma, abbiamo avuto diciamo, la possibilità di poter scegliere un po', visto la quantità di film iscritti, meglio un po' della produzione del 2017-2018 e avremo questi 118 film con relativi registi, dibattiti, incontri, insomma per qualche giorno Torino sarà diciamo, animata dal film e dibattito sull'ambiente. Allora, l'altra domanda è come sarà strutturato il festival, quali sono i luoghi e quali sono anche le giornate, se saranno consecutive. Dunque, il festival si svolge dal 31 maggio al 5 giugno, e si chiude il 5 giugno che è la giornata mondiale dell'ambiente. Le proiezioni saranno alla mattina riservate alle scuole, poi pomeriggio e sera per tutta la cittadinanza durante tutti i giorni del festival. La sede principale delle proiezioni è il Cinema Massimo, che è il cinema del Museo Nazionale del Cinema, e più ci sono altre sedi come il Centro Studi Sereno Regis, e altri locali di proiezione. L'ingresso al festival, ci fa piacere sempre ricordarlo, è gratuito a tutti gli appuntamenti del festival ed è strutturato nella maniera classica di sempre, cioè ci sono le sezioni competitive, cioè il concorso internazionale dei lungometraggi, poi il concorso One Hour che è riservato ai documentari della lunghezza di circa un'ora, il concorso documentari italiani, poi quest'anno si è aggiunto una sezione che prima non era competitiva, ma che da quest'anno è diventata competitiva, che è il concorso cortometraggi internazionali. C'è poi una sezione panorama con appunto eventi speciali, film che per tutta una serie di ragioni non abbiamo potuto mettere tutti in concorso. La novità dell'anno è Cinema Ambiente Junior, che oltre alle proiezioni riservate alle scuole, che quest'anno seguono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha una nuova sezione competitiva. È stata aperta una nuova sezione competitiva riservata ai cortometraggi realizzati dalle scuole italiane di tutti gli ordini e gradi, quindi dalle elementari, le scuole medie, le scuole superiori. E abbiamo ricevuto anche qui tantissimi film, circa 300. Ok, allora l'altra curiosità è quali sono le aree geografiche, le cinematografie di queste aree geografiche più sensibili e su quali argomenti stanno focalizzando l'attenzione? Sono appunto la grande quantità di film che ci è arrivata un po' da tutto il mondo. Le nazioni che sono più sensibili, che hanno diciamo, una produzione più corposa sia dal punto di vista numerico che dal tipo di film sono un po' gli Stati Uniti come grande momento, il Canada, la Francia, la Germania e l'Italia anche perché abbiamo un'attenzione particolare qua in Italia, ma sono arrivati film anche dall'Iran, molti film, dalla Corea, dalla Cina addirittura. Per cui tra l'altro la Cina l'anno scorso ha vinto il festival, il primo premio, il premio principale, per cui un po' tutto, diciamo, insomma, sono film che arrivano un po' da tutto il mondo, anche perché noi abbiamo questa fortuna facciamo parte di questa rete internazionale che si chiama Greenfin Network, che coordiniamo qui da Torino, che raggruppa festival di film a tematica ambientale un po' da tutto il mondo. Siamo 40 festival che vanno dalla Corea del Sud al Brasile, eccetera. È veramente un movimento internazionale quello del cinema ambientale, che si sviluppa sia come festival diffusi nel territorio, nelle varie nazioni, che come produzione cinematografica dai paesi più piccoli a quelli più importanti. Sì. Le tematiche più diffuse? Quest'anno apriremo nuovamente il festival con un film sui cambiamenti climatici. Okay. Ricordiamo che i cambiamenti climatici sono il problema più drammatico che abbiamo di fronte, per cui continuiamo a insistere su questo, e questo è uno degli argomenti, diciamo, che ormai è nell'agenda sia politica che artistica a livello internazionale. Ma da qualche anno il cinema ambientale è, oltre che un cinema di denuncia, è un cinema di proposte, di nuovi stili di vita, per cui questa è un po' la linea di quest'anno. Vedremo dei film che un po' che delineano il futuro della nostra società, cosa succederà nei prossimi anni, sia dal punto di vista dell'ambientale, diciamo negativo per qualche per dei problemi ambientali, sia anche però dalle possibili soluzioni, per cui saranno film propositivi sui nuovi stili di vita. Questo un po', insomma, sono le due linee su cui si muove il festival: la denuncia e la proposta sulle possibili soluzioni, su chi, cosa ognuno di noi può fare per avere meno impatto sul pianeta. In chiusura, tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Il sito web del festival è www.cinemaambiente.it. Perfetto. Allora, un saluto e un ringraziamento a Gaetano e Lia per la 21esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio al 5 giugno. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille. Grazie, viva il lupo. Ciao.